Giovedì 2 marzo andrà in scena al Teatro Odeon lo spettacolo Smarrimento e io sono qui per parlarne con Lucia Mascino. Ciao Lucia, benvenuta ai nostri microfoni. Grazie, buongiorno a tutti. Esperta di smarrimenti io ormai. Esatto, io proprio dalla parola smarrimento volevo partire, dal titolo. Che cosa sta a rappresentare? Perché secondo me può essere un po', no, una parola chiave per questo spettacolo. Sì, allora, è stato anche molto discusso perché qualcuno dice che spaventa, che fa pensare subito a una cosa molto pesante. Io lo trovo adattissimo perché è una parola che emana una serie di significati diversi, che principalmente è come dire uno, è un po' Alice nel paese delle meraviglie, uno che cammina e si gira intorno e dice aspetta dove sono finito. Lo smarrimento proprio in senso anche, come dire, di sorpresa, di domanda su di sé. Boh, non lo so, io lo sento in termini giusto perché sia un po' tragico che un po' comico, buffo, cioè smarrirsi, no? Poi si dice anche di una maglietta, si è smarrito il colore, cioè è un termine che emana tanti significati diversi e la cosa che è stata strana perché il titolo è rimasto, nonostante molte versioni siano cambiate del testo, perché poi Lucia Calamaro, l'autrice e anche la regista, l'ha scritto, no? Apposta su, non dico su di me perché sembra un po' un vanto, però l'ha scritto sullo spettacolo, su di noi, cioè io interpreto lei e lei l'ha scritto un po' su di me, quindi questo per dire che il termine smarrimento è sempre rimasto dall'inizio alla fine, nonostante i mille cambi, e la cosa curiosa è che era tutto precedente perché ha debuttato nel 2019, quindi è stato quasi un titolo un po' che ha abbracciato tutto questo periodo, e l'altra cosa in coincidenza con questo periodo è stato anche il fatto che noi l'abbiamo proprio creato provando a casa, in un salotto da me, è proprio partito intimo. E poi nonostante sia diventato uno spettacolo che è stato anche in sale molto grandi, più o meno grandi, ha una natura intima, perché è come un cabaret esistenziale, è un personaggio che è quello di una scrittrice in crisi, quindi un personaggio anzi un po' anche il personaggio stesso un po' tragicomico, che non riesce più a finire di scrivere i romanzi, cioè è totalmente come scrittrice in crisi, e sì, diciamo, si muove nello spazio facendosi domande molto esistenziali ma anche molto concrete. Quindi è difficile da raccontare in poche parole questo spettacolo perché ha questa doppia natura, no? Di esistenzialismo ma anche un po' di cabaret. Certo, quindi smarrimento direi che era la parola perfetta per descriverlo. E l'hai citata anche tu, Lucia Calamaro, lei che ha scritto e diretto appunto questo spettacolo, com'è stato lavorare insieme, com'è stata la vostra collaborazione? È stata una cosa, nella mia vita è stata una tappa assolutamente importante, anche perché non avevo mai fatto i monologhi e non avevo questa cosa di fare la prova d'attrice del monologo. In realtà invece adesso mi rendo conto che è una tappa, perché è un po' diverso, non è come viaggiare da soli. Quindi quando ho incontrato Lucia, che c'eravamo un po' cercate perché lei mi aveva chiesto di fare uno spettacolo, io non potevo, e all'incontro in un bar al tavolino era esploso una specie di innamoramento reciproco, cioè io almeno l'ho sentito così, un incontro, e quindi quando c'è questa cosa qua, poi lavorare insieme parte da questa grande potenzialità, e poi dopo dentro ci sono tutte le varie fasi, perché comunque lavorare insieme vuol dire esporsi, quindi vuol dire essere più vulnerabili, vuol dire anche spostarsi, non è come prendere un caffè al bar dove ti puoi anche stare molto simpatico. Quando lavori insieme sei certo. A pelle nuda, ecco, senza pelle. E quindi è stato un percorso molto complesso anche lavorare con lei. Io le sono profondamente grata perché alla fine la stimo così tanto che tutti i lunghi e faticosi passaggi che ci sono stati ne sono tutti valsi la pena per me. Non ci resta che invitare i nostri ascoltatori giovedì 2 marzo al Teatro Odeon a vedere Smarrimento. Quindi grazie veramente Lucia per avercene parlato. Grazie a voi, vi aspetto proprio al Teatro Odeon. Mi viene sempre da dire Odeon, invece no, è Odeon. Perché abbiamo anche quello a Bologna, ne abbiamo un paio. Esatto. Va bene. Grazie ancora. Grazie a te.